Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Le fiamme illuminano la notte di Kingston, la battaglia per prenderlo è continuata per ore. Stamattina la città bruciava ancora, ma l'assedio della polizia non ha raggiunto l'obiettivo. Christopher Coke, detto Dudu, signore della droga, è ancora libero. Decine di morti finora nella battaglia contro le posse, le gang di quartiere, di un quartiere soprattutto, il Tivoli Gardens, che difende il suo boss, inseguito da un mandato di cattura americano. Non lo vogliono consegnare perché è il loro capo, quello che dà sicurezza e lavoro. Così si torna a parlare della Giamaica, un paese poverissimo, popolato dai figli degli schiavi africani che ricordavamo soprattutto per un'immagine alternativa nel panorama dei cosiddetti paradisi turistici. Un paradiso travagliato. Ecco che cos'è la Giamaica. Un luogo dove la bellezza della natura si scontra inevitabilmente con i corsi e i ricorsi della storia. Perla delle Grandi Antille, tuffata nel bel mezzo del Mar dei Caraibi, 150 km a sud di Cuba e 630 a est della lingua di terra che collega Nord America e Sud America, in quanto a collocazione geografica e qualità paesaggistiche, la Giamaica sembra davvero un luogo benedetto dagli dèi. Erano gli anni 30 e 40 del secolo scorso, quando Errol Flynn ed altri attori di Hollywood recitavano in film ambientati nella splendida isola caraibica, lasciando che i registi imprimessero sulla pellicola, oltre ai loro volti di star della classicità, sequenze infinite di spiagge bianche, montagne piene di vegetazione e tramonti infuocati. E il cinema, a dire il vero, non smetterà tanto presto di coltivare la sua fatale infatuazione per l'isola. Nel 1962 sarà proprio la Giamaica a ospitare l'incipit di una fortunatissima saga di spionaggio, così fortunata da essere arrivata praticamente indenne fino ai giorni nostri. C'è un posto per lei sull'aereo delle 7 per Kingston, quindi ha esattamente 3 ore e 22 minuti. Le sarà consegnata all'aeroporto una serie di documenti informativi aggiornati in una borsa ad autodistruzione. Li studierà durante il viaggio. La voce che avete appena sentito è quella di M, capo dell'MI6 e responsabile delle missioni del celeberrimo agente 007, qui interpretato per la prima volta in assoluto da un giovane ed affascinante Sean Connery. Agente 007 Licenza di uccidere è il primo film della fortunata serie di avventure di James Bond, nate sul suolo giamaicano in virtù dell'amore di Ian Fleming per l'isola. Lo scrittore britannico, infatti, amava lavorare ai suoi romanzi, restando immerso nella selvaggia e rigogliosa natura giamaicana, e per questo risiedeva spesso in un cottage affacciato sul mare, lo stesso mare dove Connery ha la fortuna di incontrare la statuaria Ursula Andress nell'indimenticabile sequenza del bikini. Come si chiama? Ryder. Ryder come? Oni Ryder. Che ci trova di buffo? Oh, niente. È un nome graziosissimo. Lei come si chiama? James. Difficile che James Bond resista al fascino della sirena teutonica che emerge dal mare strizzata nel suo celeberrimo due pezzi bianco, con tanto di cintura e coltellaccio al seguito. Tanto più se l'acqua che ha appena finito di bagnare le curve della Andress è quella cristallina del mare giamaicano. Un'isola benedetta e al contempo maledetta, stretta fra lo splendore della natura e le miserie prodotte dalla dominazione coloniale. Una meraviglia divisa tra il lusso delle dimore dei diplomatici inglesi e i ghetti più pericolosi di Kingston, la capitale di un paradiso in bilico fra il sogno e un brusco tetro risveglio. If I had your world, I would give it away just to see the girls I play. Kingston diventa capitale della Giamaica indipendente nel 1962, lo stesso anno in cui il regista Terence Young ambienta proprio in quegli stessi luoghi le primissime avventure di un agente segreto al servizio di Sua Maestà. Per l'isola caraibica, quello con l'Inghilterra è un rapporto di vecchia sudditanza, ma anche di scambio fecondo. E il nostro primo protagonista di oggi è un virtuoso esempio di questo secondo approccio. Lui è nato a Londra, nella capitale, nonché cuore pulsante della Gran Bretagna. Ma la Giamaica lo ha adottato come un figlio. Il suo nome è Chris Blackwell. Chris Blackwell. C'è una bella differenza tra il freddo e imprevedibile clima londinese e il confortante tepore tropicale delle isole caraibiche. Ne sanno qualcosa Joseph Blackwell e Blanche Lindo, padre e madre del piccolo Christopher Percy Gordon Blackwell, nato a Londra il 22 giugno 1937, ma cresciuto scorazzando liberamente tra la rigogliosa vegetazione giamaicana. Il posto ideale per giocare, esplorare, sviluppare la curiosità e molte altre qualità positive. Certamente però la Giamaica non è il posto migliore in fatto di preparazione scolastica ed è per questo che il piccolo Chris viene rispedito nella madrepatria per frequentare suo malgrado uno dei migliori istituti del paese. I miei genitori mi hanno rimandato in Inghilterra a scuola, da Harrow, ma si è capito fin da subito che i libri non erano il mio forte. Quindi sono tornato in Giamaica a 17 anni. Mi sono messo a fare un sacco di cose diverse. Per esempio, ho aperto un noleggio di motorini e anche un piccolo club dove suonavano il jazz. Harrow è il quartiere londinese situato a nord-ovest del centro della capitale, dove si concentrano nel raggio di pochi chilometri alcune delle scuole più prestigiose dell'intera Gran Bretagna. Camminando per le vie di Harrow si incontrano veri e propri squadroni di bambini e ragazzi in divisa. I maschi in giacca e camicia, le femmine in gonna a pieghe e mocassini di ordinanza. Tutti uguali e disciplinati, almeno all'apparenza. Ma la gioventù inglese non si ferma senz'altro all'impressione di ordine che può suscitare una manciata di abiti incoordinato. Anche il giovane Christopher Blackwell indossa una divisa. Ma non sarà certo quella a fare di lui un ragazzino disciplinato. Chris è così restio alle costrizioni imposte dalla scuola che i genitori scelgono di riportarlo in Giamaica. Certi che in ogni caso il figlio non abbia alcuna intenzione di proseguire gli studi, frequentando un giorno il college. Meglio che si faccia le ossa con la vita vera, al di fuori delle aule scolastiche, come lui stesso a raccontare. Mi occupavo della gestione di 63 jukebox in Giamaica, il che significava che dovevo sempre andare in giro per occuparmi di tutti i 63 jukebox, cambiare i dischi, assicurarmi che funzionassero e litigare sul conteggio delle monetine col proprietario di un piccolo bar di pescatori a ridosso di una spiaggetta o in cima a una collina. Ho assorbito ed imparato un sacco di cose. Quello per me è stato il battesimo con la vita vera. Chris, in virtù della sua blasonata preparazione scolastica e degli agganci paterni, lavora per qualche tempo come assistente del governatore britannico in Giamaica. Ma la sua vera passione è la musica e si manifesta in varie forme fin da quando è bambino. La gestione del piccolo locale di jazz, i jukebox sparsi in tutta l'isola. Per lui le note sono un elemento vitale, ma è un episodio in particolare a farlo avvicinare definitivamente all'idea di fare della musica il centro della propria carriera e più in generale della vita. Costa giamaicana, 1958. Il ventenne Chris sta guidando una piccola barca al largo di Elshire Beach, lunghissima distesa di sabbia non lontano dalla capitale Kingston. Improvvisamente lo scafo si incaglia in un tratto dove affiora la barriera corallina, costringendo Blackwell ad abbandonare la barca e a nuotare fino a riva per cercare aiuto. Una volta raggiunta la costa, Chris percorre già stremato alcuni chilometri camminando sulla sabbia bollente fino a quando, ustionato e distrutto dalla fatica, non collassa sul bagnasciuga. A salvarlo è un pescatore del luogo che cura le sue ferite e lo rimette in salute usando i metodi tipici della religione e della filosofia in cui crede, il rastafarianesimo. Una religione, una filosofia, uno stile di vita che in Giamaica sono fondamentali e che Chris Blackwell impara a conoscere proprio a partire da questo momento di difficoltà personale. Attraverso questa esperienza, Blackwell si avvicina sempre più alla cultura rasta, filosofia che certamente trova nella musica una chiave privilegiata di espressione. È così che un anno più tardi, nel 1959, Blackwell decide definitivamente di fare della musica la sua ragione di vita e la sua fonte di sostentamento. È lui stesso a parlarcene. Il nome della mia azienda è Island e si trattava davvero di una questione di isole, diciamo. Non è difficile immaginare come il nome della nuovissima etichetta discografica fondata da Blackwell sia influenzato enormemente dal luogo in cui Chris vive e dal quale trae costante ispirazione. Abbiamo cominciato occupandoci solo di musica giamaicana, poi la cosa è cresciuta. Io ero sempre o in studio ad incidere o in giro a cercare nuovi talenti, praticamente tutto il tempo. Il debutto della neonata Island Records sul mercato avviene con il talentuoso pianista Lance Haywood, originario delle Bermuda. Ma c'è uno specifico bacino musicale in cui Blackwell crede particolarmente ed è per questo, a partire dall'inizio degli anni 60, che Chris comincia a incidere, produrre e distribuire a tutto spiano musica popolare giamaicana. Non gli importa quali siano i trend della discografia, né tantomeno le mode più seguite. Il suo fiuto gli dice che quella è la strada giusta da seguire. Credo che la Island fosse un'eccezione nel panorama della discografia. Avevamo un tipo di musica diverso da quello che le major spingevano insistentemente. Eravamo degli outsider. Nel 1964 Blackwell si accorge del talento di una giovanissima cantante giamaicana, Millie Small. La sua voce è fresca e infantile e irrompe con prepotenza sulle frequenze radio di mezzo mondo. My Boy Lollipop è un successo strepitoso e Chris Blackwell lo aveva previsto, tanto da avere deliberatamente scelto di non pubblicare il singolo sulla sua etichetta. E lui stesso a spiegarcene il perché. Non ho pubblicato My Boy Lollipop sotto l'etichetta Island perché ero certo che si sarebbe rivelata una hit di quella portata. Le etichette indipendenti allora non potevano certo permettersi di gestire l'esplosione delle hit. Non potevano pagare le industrie che sfornavano fisicamente i dischi in tempo per soddisfare la domanda pressante di quella determinata canzone. My Boy Lollipop è considerato da molti il primo vero successo di musica giamaicana che sia mai riuscito a oltrepassare i confini dell'isola. Per la prima volta in assoluto, la musica ska, basata sugli accattivanti ritmi in levare, tipici della Giamaica, si impone come novità da tenere in assoluta considerazione, anche nella fredda e piovosa Inghilterra. La giovanissima Millie Small, però, si rivela una meteora. E benché Blackwell continui a occuparsi di promuovere la musica giamaicana, c'è un'altra ondata in arrivo che sta per sconvolgere il panorama della discografia mondiale. C'era tutto un nuovo tipo di musica che stava emergendo. Non era davvero pop, era più una specie di anti-pop. Nel pop tutti si vestivano sempre come se fossero in uniforme. Nel rock gli artisti si presentavano tutti sul palco con gli stessi vestiti che portavano da 3 giorni e magari ci avevano anche dormito con quei vestiti. Era un tipo di musica con uno stile molto più libero ed era vicino alla mia sensibilità jazz. Era una questione di musica, non aveva a che fare col fatto di avere un viso grazioso, ecco. A metà degli anni 60 i Beatles sono ancora 4 giovanotti di Liverpool con l'aria pulita e rassicurante, i capelli a scodella e le giacche tutte uguali da bravi scolaretti. Questo è quel che tira maggiormente, quello che fa vendere dischi nel mondo della discografia. Ma anche i Fab Four, col progredire del decennio verso gli psichedelici anni 70, si faranno crescere barba e baffi e abbracceranno la filosofia del rock, la stessa che Blackwell sente di voler seguire fin dai suoi esordi nel panorama discografico. Rock inteso come scarto dalla norma, come baluardo estremo di diversità, di rivendicazione di un'alterità considerata come fondante. Nella Giamaica popolata da neri, figli di quegli schiavi abituati a spezzarsi la schiena nelle piantagioni, nella Giamaica che solo da pochissimo tempo è riuscita a rendersi indipendente dal giogo britannico, la musica è molto più di un semplice aggregato di melodie e ritmi. Noi abbiamo preso la frustrazione come un'ispirazione per scrivere canzoni. Sono le canzoni a farci uscire dalla frustrazione. La voce che avete sentito è quella di Bunny Wailer, ex membro dei Wailers, uno dei gruppi che hanno contribuito a scrivere la storia del reggae, ovvero la musica che tutto il mondo identifica come giamaicana per eccellenza. Se è vero che la musica è una manifestazione della coscienza di un popolo, al tempo dell'indipendenza la musica in Giamaica è costruita su ritmi veloci, perché tutti si sentono in fermento. È così che nei primi anni 60 scoppia la passione per lo ska. Poi l'euforia si esaurisce e la gente inizia a chiedersi il significato dell'indipendenza. La musica diventa più lenta, più rilassata. È la volta del cosiddetto rock steady. Infine il popolo capisce che l'indipendenza è sì una conquista, ma non rappresenta tutto. È a questo punto che i giamaicani cominciano a cercare con insistenza le proprie radici africane. Ed è così che nasce il reggae. La musica reggae è la musica della gente, ed è una musica fatta di notizie. È come una bacheca. Ci trovi cose che altrimenti non sentiresti e di sicuro non ti insegnano a scuola. Questa è la voce del più grande cantante di musica reggae di tutti i tempi. Un artista le cui parole in Giamaica sono capaci di scaldare i cuori di migliaia di persone. La musica reggae è un simbolo dell'isola e quest'uomo ne è il sommo profeta. C'è un produttore discografico amante sia della Giamaica che della buona musica che si rende conto di volere investire su questo carismatico artista reggae. In lui vede un infinito potenziale e scorge un territorio di confine in cui la musica si intreccia alla filosofia, oltre che alle questioni sociali e politiche che da sempre affliggono il mondo, specialmente nei suoi angoli più angusti e vessati. L'incontro fra Blackwell e questo signore del reggae si rivelerà fondamentale, al punto da imprimere per sempre una svolta nell'intero universo musicale. Destini incrociati. Destini incrociati è in Giamaica, terra di splendidi paesaggi e forti contraddizioni post-coloniali. I giamaicani, dopo secoli di dominazione prima spagnola e poi britannica, hanno ottenuto l'indipendenza e sono coscienti dei propri diritti e delle proprie potenzialità. Il popolo nero, discendente degli schiavi, dopo 500 anni di strapotere dei bianchi, vorrebbe rinsaldarsi idealmente con i propri fratelli africani e vorrebbe farlo, perché no, a suon di musica. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. La voce che state ascoltando è quella dell'uomo che per i giamaicani rappresenta un faro, un simbolo di lotta per l'emancipazione di un popolo intero. È un cantante, un musicista, ma anche un filosofo e un santone, certamente in virtù della religione che pratica, il rastafarianesimo, che profetizza l'avvento di un leader nero capace di ricondurre nella propria terra tutti i discendenti degli schiavi africani sparsi in giro per il mondo. Forse non è lui il profeta di cui parlano i Rasta, ma il suo modo di rivolgersi al pubblico ne fa comunque un idolo carismatico e un capo imprescindibile. Tutti questi elementi, uniti al particolare affatto trascurabile che si tratti di un musicista di enorme talento, concorrono a convincere Cliff Blackwell, fondatore della Island Records, a volere a tutti i costi puntare su di lui. Questa scommessa vincente ha un nome. Si chiama Bob Marley. Bob Marley. In quel periodo mi stavo occupando di musica rock, che è un tipo di musica piuttosto ribelle. Mi sono trovato a pensare che la via del rock fosse quella giusta per esportare il reggae fuori dalla Giamaica, ma ci voleva qualcuno che incarnasse quell'immagine rock. Poi Bob è entrato nel mio studio e l'ho capito subito. Lui incarnava quell'immagine. Quell'immagine era lui. Robert Nesta Marley nasce il 6 febbraio 1945 nel villaggio di Roden Hall, distretto di St. Anne, sulla costa settentrionale della Giamaica. È il frutto della relazione tra Norman Marley, capitano dell'esercito inglese, e Sadella Broker, giamaicana. Una relazione pericolosa, come ci racconta il musicista Bunny Wailer. Suo padre era un bianco, sua mamma una nera. All'epoca era una situazione che generava parecchia diffidenza e aveva delle conseguenze. Se sei bianco, non dovresti mai mettere incinta una donna nera. Se sei una donna nera, non dovresti mai farti mettere incinta da un bianco. Quindi il figlio che ne consegue non è che non sia voluto, ma il suo arrivo incute timore. Bob non ha mai avuto un padre, non lo ha nemmeno mai conosciuto. La madre fa dei sacrifici enormi per farlo studiare per quanto possibile, ma Bob si vanta di non possedere una cultura e di avere al suo posto soltanto ispirazione. L'educazione rende sciocchi, è una sovrastruttura, una rete di nozioni che offuscano la mente e impediscono di vedere davvero. Il contatto con la natura è fondamentale nel suo percorso umano e mistico, come ricorda Chris Blackwell. Ciò che contribuì a rendere Bob l'uomo che era fu il fatto di essere cresciuto in campagna. Andava nei campi e aveva quell'intelligenza innata che sa bene che prima devi seminare se vuoi raccogliere. E se invece cresci in un ambiente urbano, l'unico ostacolo che si frappone fra te e i tuoi desideri sono i soldi. Tutto quello che vuoi passa attraverso quelli. Eppure l'idillio della vita agreste non attutisce in Bob il senso di sconfitta e di abbandono dovuto all'assenza del padre, bianco inglese, sfuggito alle sue responsabilità. Cresce rapidamente in lui l'odio verso la cosiddetta Babilonia, l'inferno in terra rappresentato dal mondo occidentale bianco e dalla società oppressiva in contrapposizione con l'Etiopia, terra madre che un giorno accoglierà la gente di Jah, il dio Rasta. È nel ghetto di Trench Town che il giovane Marley coltiverà la sua ribellione e lo farà a ritmo di musica. Quando Marley scopre il rock provocatorio di Elvis Presley, il soul di Sam Cooke e Otis Redding e il country di Jim Reeves, decide di costruirsi da sé una chitarra. Vista la sua condizione di ristrettezze economiche, non c'è altro modo di avvicinarsi al mondo della musica che fino a quel momento aveva approcciato solo attraverso le frequenze della radio. Ascoltavo tanta musica innanzitutto, quella che passavano alla radio. Perché non potevamo permetterci di comprare dischi, quindi ascoltavamo la radio. Con la sua nuova chitarra improvvisata, ascoltando le canzoni della radio e strimpellando per tentativi, Bob impara a suonare da perfetto autodidatta. Quella chitarra è uno strumento del tutto precario, che però gli rimane fedele e dal quale non si separa praticamente mai, fino almeno all'incontro con Peter Tosh, musicista che per sua fortuna possiede una vecchia e scassata chitarra acustica. È a partire da uno, anzi due, discutibili ammassi di legno e corde che Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer costituiscono il primo nucleo dei Wailers, letteralmente coloro che si lamentano. Saranno i cantori degli oppressi. Quel nome, Wailers, è tratto dalla Bibbia, libro sacro dove in ogni pagina ci sono storie di persone che si lamentano contro l'ingiustizia. Da questo momento in poi la musica di Marley diventa un tutt'uno con la storia del popolo giamaicano. E la musica di Marley non è una musica qualsiasi. Il reggae diventa il veicolo privilegiato del dialogo con Jah e con il suo popolo di oppressi. Rispetto allo ska e al rocksteady, già comparsi da qualche tempo nell'etere giamaicano, il suono diventa più corposo, il ritmo si fa più spezzato, il basso fornisce la linea guida e diviene lo strumento assolutamente dominante, mentre la chitarra accompagna e accentua notevolmente i movimenti in levare, ovvero il secondo e il quarto movimento di un ritmo in quattro quarti. Ogni persona sulla faccia della terra saprà chi sono i Rastafari grazie alla musica, e intendo dire la musica reggae. Difensore dei diritti di chi sembra non averne, uomo politico e al contempo acclamato musicista, Bob Marley incarna entrambe queste figure, anche se la sua umiltà non gli consente di averne piena coscienza. Non mi vedo come un politico, mi vedo come una persona che difende i diritti dell'Altissimo. Io sono un soldato nell'esercito dell'Altissimo. Un esercito che porta note musicali al posto di armi e uniformi, una schiera di soldati armati di chitarra, basso e voce. Io sono certo che la gente, ascoltando la nostra musica, ballando i ritmi che noi proponiamo, comprenderà anche le parole, i messaggi che sono indissolubilmente legati alle nostre canzoni, il nostro credo, la nostra fede, le nostre esperienze di popolo oppresso e i nostri problemi. Noi fondamentalmente portiamo la verità e la gente sarà portata ad esclamare: ecco, ecco qui la verità. E poi il linguaggio musicale è sicuramente universale e questo porta alla comprensione del reggae e anche al suo successo. Un successo che però fatica a uscire dai confini della Giamaica, almeno fino a quando Chris Blackwell non si accorge dell'enorme potenziale rock di Bob Marley e dei suoi Wailers. All'inizio degli anni 70, Blackwell decide di seguire il suo istinto. Mette sotto contratto Marley con la sua Island Records, offrendogli 8.000 sterline in anticipo per incidere un album. È la prima volta che un gruppo reggae ha accesso alle migliori attrezzature di registrazione ed è trattata allo stesso livello di una rock band. Chris Blackwell non ha affatto paura delle conseguenze della sua decisione. Può darsi che la sua, vista dal di fuori, sembri una mossa avventata, ma lui è certo di quello che sta facendo. A dire il vero, non è mai stato così certo di niente in tutta la sua vita. Il mio non era un lavoro serio, ma un lavoro quasi da fuorilegge, un po' come noi oggi vediamo il mestiere dello scommettitore, del bookmaker, del bagarino. In effetti era un mondo pieno di personaggi assurdi, di disadattati, e io ero certamente uno di loro. Certamente non era un lavoro in cui qualcuno pensava di costruirsi seriamente una carriera, era un mondo che stava ancora agli inizi, e questa è una cosa sempre eccitante, perché hai il futuro nelle tue mani. Prima che gli Wailers firmino per l'Island, il reggae è considerato un genere di nicchia, relegato all'interno dei confini di un'isola meravigliosa e tribolata. Con l'uscita di Catch a Fire, il primo disco di Bob Marley and the Wailers, ad essere pubblicato non esclusivamente per il mercato giamaicano, il gruppo fa letteralmente il botto, sia in Europa che in America. Destini incrociati. Destini incrociati è uscito dai confini della Giamaica, splendida isola dove la musica reggae, le sue note e il suo potentissimo messaggio di pace erano rimaste confinate, nella speranza di trovare uno spiraglio di apertura verso il mondo. Chris Blackwell, produttore discografico illuminato, è nato in Inghilterra, ma cresciuto proprio in Giamaica e dunque sa riconoscere un valido prodotto locale. Blackwell sa perfettamente che Bob Marley è sprecato all'interno del limite delle coste di quella pur meravigliosa isola. Nel 1973 la sua Island Records, il cui nome è proprio un tributo al luogo che lo ha visto crescere, mette sotto contratto Marley e gli fa pubblicare il primo disco di respiro internazionale. La strategia che adottammo fu quella di presentarli come una band di musica rock composta da neri. Catch a Fire, il primo album di Bob Marley and the Wailers a uscire sul mercato statunitense ed europeo, è un successo senza precedenti. I brani da inserire nel disco erano arrivati agli studi dell'Island alla fine del 1972 e qui, secondo le indicazioni di Blackwell, vengono adattati alle esigenze del pubblico bianco e appassionato di rock cui era destinato. Vengono aggiunte delle sovraincisioni di chitarra e di tastiera e per la questione della copertina, vero e proprio biglietto da visita di qualunque disco sul mercato, si decide di fare uscire il disco a nome degli Wailers e non come Bob Marley and the Wailers, proprio per andare incontro alle esigenze di un pubblico abituato a riempirsi la bocca coi nomi delle rock band. Si è fidato del mio istinto. E il mio istinto diceva che doveva presentarsi agli occhi del mondo come una rock star, non come un musicista di quelli che vengono trasmessi sulle radio americane riservate alla musica nera. La sua musica era in qualche modo selvaggia, cruda ed eccitante, mentre tutta la musica cosiddetta nera in quel periodo, fatta a eccezione per James Brown, era molto superficiale, di quelle che scivolano via facili facili, senza lasciare traccia. Il tour che segue la pubblicazione dell'album li vede impegnati tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, dove ottengono un successo strepitoso, corredato da una popolarità straordinaria per una band che in ogni caso fa una musica fortemente ascrivibile a un genere ben preciso. Bob si è fidato ciecamente di me. Aveva lo stesso genere di intuito che possiedo io. Era al mio fianco quando siamo tornati in studio per sistemare le ultime cose del disco. Dopo quel momento è stata tutta in discesa. La fama cresce a dismisura e per la fine degli anni 70 Bob Marley è uno degli artisti più riconoscibili e apprezzati della scena musicale mondiale. Il reggae ha conquistato il mondo. L'album Uprising, pubblicato nel 1980, nonostante sia un disco fortemente politico e impegnato, entra di prepotenza in ogni top 10 europea delle vendite. La sua band progetta anche una nuova tournée americana con Stevie Wonder per l'inverno del 1980. La salute di Bob, però, sta peggiorando visibilmente. Durante un concerto a New York, nel bel mezzo del palco, Marley ha un mancamento che lo costringe a ulteriori accertamenti. La diagnosi è impietosa, devastante. Un tumore al cervello. Metastasi dappertutto. Secondo i medici, non gli restano che pochi mesi di vita. Il giorno del suo 36esimo compleanno, il 6 febbraio 1981, lo trascorre in una clinica tedesca specializzata in oncologia. Ma nemmeno qualche eccentrica terapia europea può salvarlo da un destino già segnato. Tre mesi dopo, l'11 maggio 1981, Bob si spegne in un ospedale di Miami. 'Cause all I ever have, redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Il funerale di Bob Marley, tenutosi in Giamaica il 21 maggio 1981, potrebbe essere tranquillamente paragonato alle esequie di un re. Centinaia di migliaia di persone vi partecipano commosse. La gente comune si dispera così come le alte cariche dello Stato. La Giamaica e il mondo intero perdono un leader carismatico. E anche per il mondo della musica si tratta di un lutto di portata non indifferente, come ricorda lo stesso Chris Blackwell. Bob è morto l'11 maggio del 1981 e Cat Stevens ha scelto di ritirarsi dalle scene il 12, proprio quando la notizia della morte di Bob stava cominciando a fare il giro del mondo. È stata decisamente una brutta settimana. Chris Blackwell perde in un colpo solo entrambi i suoi artisti di punta. Marley se l'è portato via un tumore, mentre Cat Stevens sceglie di seguire la via mistica, convertendosi all'Islam. A Blackwell non resta che tornare a esercitare il suo fiuto da scopritore di talenti. La prima volta che ho incontrato Chris Blackwell, avevo 18 anni. Gli U2 suonavano in un pub a sud di Londra. La voce che avete appena sentito è quella del leader carismatico di una delle band più famose della storia del rock, scovata da Chris Blackwell in un baretto qualsiasi. Loro sono irlandesi e hanno talento da vendere. Blackwell capisce immediatamente che questi quattro ragazzi sono quello che ci vuole per continuare a portare avanti il buon nome della Island Records, costruito innanzitutto grazie all'esplosione mondiale del reggae. È stata dura, ma ormai avevamo un nome e quindi eravamo pronti per rimetterci in gioco. È a questo punto che gli U2 sono diventati il gruppo portabandiera della Island. Il fiuto di Blackwell è infallibile. Gli U2 sono una sua geniale scoperta e il loro primo disco, Boy, ne decreta già il successo. È Bono in persona a intessere le lodi del suo produttore e talent scout. Chi è Chris Blackwell? È la ragione per cui io sono qui. E sapete una cosa? 10 o 12 persone come Chris Blackwell sono la ragione per cui noi tutti siamo qui. E se vogliamo restarci, facciamo meglio ricordarcene. Uomini come Chris Blackwell sono quelli che hanno scritto la storia della musica mondiale. E l'occasione in cui Bono tiene il suo discorso, infatti, non è casuale. Si tratta della cerimonia con la quale Blackwell, nel 2001, è stato ammesso ai fasti della celeberrima Rock and Roll Hall of Fame. La musica non smetterà mai di esistere. Mai, mai e poi mai. Non c'è alcun dubbio in proposito. Certo che non smetterà di esistere, a patto di poter continuare a contare su personalità lungimiranti e illuminate del calibro di Chris Blackwell, un uomo il cui fiuto da talent scout è esploso proprio grazie a un'altra esplosione, quella internazionale del reggae, sdoganato da un artista carismatico e indimenticabile come Bob Marley, un uomo che è rimasto ancorato alle sue radici anche una volta salito alla ribalta mondiale del rock. Per alcuni la musica è una scusa per fare soldi. Per i migliori i soldi sono una scusa per continuare a fare musica. Morning.